La zanzara. Con Alessio Maurizi. Numero verde 824 0024 per intervenire in diretta anche questa sera. Numerosi cari ascoltatori, potete iscriverci anche al 349 238 6666 e anche alla zanzara at radio24.it. Se riusciremo, daremo uno sguardo anche a Facebook, la zanzara. E allora cominciamo anche questa sera che è monopolizzata dall'attesa del Consiglio dei Ministri. Probabilmente il governo metterà nero su bianco le misure di cui già si sanno ampie anticipazioni per anticipare questo benedetto pareggio di bilancio. Cominciamo con Sky TG24. 45 miliardi per il pareggio di bilancio del 2013, confermato che ci sarà l'imposta di solidarietà. Tra un'ora il Consiglio dei Ministri per il decreto Salva Italia con Napolitano che invoca responsabilità. Tremonti annuncia tagli ai ministeri per 8 miliardi e mezzo, uno in più per gli enti locali. Regioni, comuni e province pronte alla mobilitazione, così dicono addio alla riforma. Intanto c'è un nuovo record, il debito pubblico che sfonda il tetto dei 1.900 miliardi. Piazza Affari chiude in forte rialzo nel giorno della stretta europea contro la speculazione. Morto un anziano aggredito negli scontri a Londra, Cameron contro i social network. Doveva fare Londra-Sydney in un'ora, Superjet si schianta sul Pacifico. Da dove prenderà i soldi il governo e il ministro Tremonti per riportare in pareggio il bilancio dello Stato italiano? Ripeto, le misure si sanno, si conoscono, le possibili misure, le ipotesi, ci sono ampie anticipazioni e qualcosa anche di più. Però ci sono anche delle fronde nella maggioranza e tra gli enti locali, fronde opposte. Ci sono dei parlamentari del PDL che hanno detto chiaramente questa è l'occasione, ed è un po' la posizione di una parte del partito di maggioranza, per tagliare le spese dello Stato, spese, dicono loro, inutili. Tagliare le spese inutili, per esempio, lo sostiene l'onorevole Straquadagno, che ieri sera abbiamo avuto ospite qua da noi. Quando leggo che al tavolo con i partiti sociali c'è qualcuno che dice che non si può toccare previdenza, pubblico impiego e sanità, dico che cosa possiamo toccare? Nulla, perché questi sono i tre grandi comparti della spesa pubblica. O noi ci poniamo la prospettiva del futuro, di questo dovremmo parlare, non di dove andare a trovare 20 miliardi di euro nel giro di una settimana, perché questo ci riporta nel buco nero della tassazione che insegue la spesa, mentre invece dobbiamo rovesciare la nostra prospettiva. Tutto qua. Ancora sentiamo un altro passaggio di Straquadagno, chiarissimo su questo concetto che è il momento di tagliare i capitoli dello Stato che sono ingrassati troppo e non di aumentare le tasse, per esempio con patrimoniali o tassazioni delle rendite finanziarie. Il presidente Berlusconi non ha mai condiviso un'impostazione che porti all'innalzamento della pressione fiscale. Ecco, ed è evidente che noi non possiamo essere il governo della patrimoniale, perché questo ci farebbe perdere non un appuntamento qualunque, ma ci farebbe perdere la faccia definitivamente rispetto al nostro elettorato. La patrimoniale no, eppure la vuole una parte della Lega, sicuramente la vuole il sindaco di Verona Tosi, ma non soltanto lui. La vorrebbe anche il sindaco di Roma Alemanno, che anche lui è del centrodestra. Sarà forse perché questi sono sindaci, cioè amministrano gli enti locali e rifiutano quindi il concetto che ci possano essere dei tagli ai trasferimenti agli enti locali, ed è questo il tema di oggi con l'incontro delle regioni e il governo e un Formigoni che tra poco sentiremo molto critico, però sull'altro versante non vogliono i tagli. Chiudiamo con Straquadagno che chiarisce fino a che punto il dissenso di queste parte di onorevoli del PDL potrebbe arrivare fino a bocciare i passaggi parlamentari di una manovra che preveda nuove tasse. Non è un dissenso fino adesso. Abbiamo soltanto detto che vogliamo vedere il decreto. Abbiamo detto che il voto non è scontato. Non possiamo pensare che il voto, che il nostro voto, e penso che il voto di molti parlamentari del Popolo della Libertà, così penso che lo stesso valga per la Lega, quando Bossi ha definito confuso l'intervento di Tremonti, non penso che abbia detto cose molto diverse da quelle che stiamo dicendo noi. Ecco, non possiamo pensare che sia, come dire, un voto per a prescindere, ecco. E devo dire che sono molti i commenti anche sui giornali di oggi, anche non necessariamente da esponenti di centrodestra, che dicono che senza tagli qualche capitolo della spesa pubblica è davvero difficile vedere la luce alla fine del tunnel. Ma veniamo alle proteste degli enti locali, così il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni. In questa misura i tagli previsti nella manovra del luglio 2011 pesano per il 50% sulle regioni, quando le regioni pesano nella spesa totale soltanto per il 16%. Quindi è evidente che c'è un effetto distorsivo e sproporzionato pesantissimo a svantaggio delle regioni. Così Formigoni, ma ce n'è per tutti. C'è anche il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, che dice chiaramente: attenzione, perché noi possiamo pure risparmiare qualcosa, ma i tagli che ci vengono proposti imporranno tagli alle spese sociali sostenute dai comuni per rendere i servizi ai cittadini. Un concetto anche questo chiarissimo, che abbiamo sentito più volte, però sentiamo Alemanno di oggi. Io voglio sottolineare che siamo, per quanto riguarda questi tagli, in particolare quelli dei comuni, in un ambito di pura spesa sociale. Noi siamo disponibili a qualsiasi passaggio a raggi X dei nostri bilanci rispetto a quelli che sono i costi standard, rispetto a quelli che sono la realtà del personale. Bene, siamo di fronte a spese tutte incomprimibili, salvo appunto le spese sociali. Quindi siamo di fronte a un taglio che non è taglio alla politica, non è taglio alle istituzioni, è taglio alla spesa sociale. Questo deve essere sottolineato con grandissima forza. Le due linee che insomma si leggono sui retroscena dei giornali: Tremonti per il rigore e Berlusconi che invece non vuole nuove tasse e vorrebbe sì fare dei tagli, però vorrebbe accontentare un po' tutti. Le due linee che ce l'hanno confermate anche per esempio Giuliano Cazzola qualche giorno fa qua alla Zanzara, uno dei pochi che, esponenti del PDL, che dice a voce alta di questa doppia linea dentro la maggioranza, che fa maggioranza e opposizione tutta al suo interno, l'abbiamo appena sentito. E in tutto questo sembra ergersi a mediatore la figura unica di Umberto Bossi, l'unico che parla con i giornalisti, con le agenzie, che dice quello che pensa e che cerca di trovare una mediazione. Sentiamolo sulla linea della saggezza, dice. Passerà la linea della saggezza. Cioè? Ti pare, se vai in giro per la città, anche qui a Roma trovi dei poveracci, dei vecchietti che vanno a rubare nei grandi magazzini la bottiglietta o il pezzo di pane perché non hanno da mangiare, cosa fai? L'Italia anche le pensioni. No. E bisognerà vedere se Tremonti e Berlusconi gli daranno retta, però Bossi dice chiaramente, li appella così, i poveracci che ci sono in giro per Roma, il riferimento è alle pensioni, ai pensionati, non possiamo tagliare le pensioni in questo momento. Sentiamo allora anche un altro commento, un po' meno autorevole, Scilipoti. Abbiamo avuto un grande successo con l'intervista di Bruno Cesario, sottosegretario del responsabile all'economia, che sostanzialmente si era avvalso della facoltà di non rispondere, insomma non ne sapeva proprio niente di questa manovra. Scilipoti, non lo so se ne sa qualche cosa, però parla di un clima positivo. È l'unico che vede un clima positivo. Io vedo un clima che è un clima di grande dialettica, ma che tutti cercano di collaborare per salvare questa nostra grande patria e dare delle risposte concrete, perché è arrivato il momento di dare delle risposte concrete. Viva! E viva l'Italia! 824 00 24 per i vostri interventi in diretta tra pochissimo, prima una pausa per il traffico. E intanto su Twitter impazza il tassiamo chi, cioè le tasse dove, visto che sembra che non si possa tassare le rendite finanziarie, non si possa fare una patrimoniale, ecco qua, tassare chi non ha mai letto Pirandello, oppure chi non paga gli stagisti, oppure tassare chi batte le mani all'atterraggio degli aerei, chi riesce a distinguere le ultime canzoni di Ligabue le une dalle altre, oppure chi compra l'auto bianca perché fa figo e io gli imporrei anche la scritta taxi sul tetto. Il ticket sanitario, ogni volta che andate al gabinetto dovete pagare 3,50 € di biglietto, oppure ancora agli hotel che non fanno entrare i cani. O cos'altro, ce ne sono tantissime, sta diventando un tormentone tassare chi carica, in effetti questa è cattivella, sui social networks le foto di vacanze di mari cristallini mentre io sono qui nel nulla. E così ce ne sono tantissime, se avete qualche suggerimento, 800 24 0024, intanto TG2. Fissato per le 19 il Consiglio dei Ministri che varerà la nuova manovra economica, sarà di 45 miliardi in due anni, ha annunciato Berlusconi, taglia ministeri ed enti locali. Dopo giorni di alti e bassi, le borse europee chiudono positivamente la settimana. Piazza Affari segna un più 4, bene anche l'andamento di Wall Street. E risultato positivo al narcotest, il timoniere del cargo che ha travolto un peschereccio al largo di Ischia. I corpi dei due dispersi probabilmente intrappolati nel relitto in fondo al mare. Al via il Ferragosto, il weekend di Ferragosto, ultime partenze per le vacanze, previsto traffico intenso ma scorrevole oggi e domani, le città però non si svuotano, tanti negozi che restano aperti. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Non andrebbero ritoccati questi prezzi? Cioè, è possibile che al Senato il carpaccio di filetto con salsa al limone costi 2,76 euro? Per quanto mi riguarda si possono anche ritoccare, così mangiamo anche meglio. Perché si mangia pure male? No, insomma, non è meglio. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Comunque, voglio dire, un pranzo alla fine viene 10-12 euro. No, 7 euro. 20-25 mila lire, quindi non è proprio zero, non è la mente di un euro e mezzo, vorrei dire. Così qualche settimana fa Riccardo Villari, onorevole ex del Partito Democratico, adesso nel gruppo Misto, parlava e commentava la questione che era già emersa dei menù a costo praticamente zero alla Camera e al Senato, senatori e deputati che pagano pochissimo per i loro pranzi e per le loro cene, per mangiare anche cibi piuttosto raffinati. E lui diceva, tutto sommato, ma no, sminuiva, insomma, non è che si mangi così bene, cibi precotti, diceva alla Zanzara da Parenzo e Cruciani. Risentiamo qualche altro passaggio. Non è che si sceglie chissà che, si mangia quello che c'è. Certo, non perdo il pesce fresco, Non c'è manco pesce fresco, non c'è il pesce fresco. Non c'è neanche il pesce fresco, in effetti non vale la pena mangiare 3,60 euro se non c'è il pesce fresco. Ma la notizia di poco fa, di circa un'ora fa, è che naturalmente anche in questo caso, sotto le pressioni di tutti articoli di giornale, commenti da tutte le parti, gli italiani non ne possono più. E allora ecco il questore di Palazzo Madama del Senato, il leghista Paolo Franco, dire: abbiamo ricevuto l'indicazione di rivedere la proporzione dei costi. Cioè, detto in altre parole, dovrebbero salire questi costi e insomma dovrebbero arrivare a pagare anche loro quello che paga qualunque altro comune mortale per un pranzo o per una cena. Abbiamo ancora qualche Villari, risentiamolo, perché prima che scoppiasse questa polemica lui in maniera simpatica però sminuiva un tantinello. Il prezzo è quello e alla fine corrisponde più o meno a quello che mangi. Una mezza schifezza, come si chiama? Schifezza, è una cosa da mensa, mensa. Bravo, il termine esatto. Una mensa di buona qualità. Una mensa, 3,60 € per mangiare il pesce fresco. Villari, era incredibile, ma come gli viene in mente, come le è venuto in mente a lei o a tutti gli altri che hanno tentato di difendere questa cosa indifendibile, insomma, altrimenti veramente, ma di che stiamo parlando? 18:22, andiamo con qualche ascoltatore e poi più avanti con il nostro primo ospite, Enrico da Udine. Buonasera, prego. Buonasera, io prendo spunto da quello che si fa nelle aziende. quando non vanno bene, quando calano i ricavi e quando i costi rimangono fissi e non diminuiscono. Premesso che ormai abbiamo capito tutti, e non occorreva arrivare a questo punto per capirlo, che il nostro problema è strutturale. Abbiamo un debito pubblico, il costo del debito della pubblica amministrazione è elevatissimo, abbiamo un debito pubblico elevatissimo, per cui qualsiasi cosa, qualsiasi finanziamento, chiamiamolo così, venga posto in essere verso l'amministrazione pubblica verrebbe comunque bruciato, perché il problema è strutturale. Allora io dico, salvaguardando le fasce più deboli, salvaguardando la democrazia, salvaguardando i pensionati che non riescono ad arrivare alla fine del mese, perché non facciamo come si fa nelle aziende? Nelle aziende, quando ci sono dei problemi, se va bene, si mettono alcune persone in cassa integrazione, e nelle aziende vanno in cassa integrazione, non vorrei sbagliare, ma circa il 70% dello stipendio. Non dico di adottare la stessa percentuale nella riduzione dello stipendio del dipendente pubblico, però di fare qualcosa, perché così non si può andare avanti. Se noi in un'azienda abbiamo dei problemi di gestione e dei costi fissi, chiediamo un mutuo, ammesso che ce lo diano, comunque, e questi soldi che vengono messi nell'azienda verrebbero comunque bruciati se non risolve il problema strutturale. Questa è una, per me, potrebbe essere una soluzione con rispetto di tutti i dipendenti pubblici, a tempo, senza mandarli a casa, dopodiché incentivare le privatizzazioni. Vediamo che in molti enti pubblici non abbiamo servizi, perché non ci abbiamo, basta entrare in Posta, per fare una raccomandata si impiega minimo in una città di 100.000 abitanti come Udine, 60 minuti, non di meno. La terza cosa è quella di limitare, di diminuire i costi della politica. Grazie Enrico, grazie. Il suo è un elenco di cose e credo che la chiave alla fine, insomma, anche se può sembrare poco eccitante, sia un po' quella. Sono tante le cose da fare. Il problema è che all'azione ci sono molte, non so come chiamarle, se lobby o fronde contrarie a questa o a quella misura, e temo che alla fine, se si imporranno, il processo di riforma che serve, a questo punto l'abbiamo capito tutti, è necessario, possa in qualche modo interrompersi. Furio da Bologna, buonasera. Buonasera a lei. Guardi, io sono una di quelle persone un po' esasperate. Vorrei fare velocemente un elenco di 10 punti da sottolineare dove prelevare i soldi. 27.000 dirigenti che... La prego, però si fermi prima di 10 perché sennò facciamo notte, prego. Vabbè, comunque 27.000 dirigenti percepiscono da 50-800.000 all'anno, vedi direttori sanitari eccetera, migliaia di consiglieri provinciali da 6.000-8.000 mensili, centinaia se non migliaia di consiglieri regionali da 12.000-18.000, consiglieri di quartiere che guadagnano da 2.000-4.500, non so quanti siano i numeri, barbieri e commessi in Montecitorio che guadagnano da 8.000-10.000 mensili, corpi diplomatici che guadagnano da 10.000-25 mensili, magistrati che guadagnano da 8.000-14.000 più varie commissioni e varie corti, funzionari dello Stato, ministeri e altro da 4.000-8.000 al mese, generali, colonnelli, finanza, militari e altro guadagnano da 7.000-12.000. Ma lei ha preso appunti, mi scusi, cos'ha, una tabella davanti a lei? Sì, perché lei va così spedito. Sono tutte cose importanti, perché sì. Si parla sempre di dove andare a prendere i soldi, si prendono sempre dagli stessi lavoratori redditi dipendenti che alla fine del mese guadagnano 2.000 e vanno in pensione con 1.400 e si comprimono questi pensionanti come me da 60 anni, lavoranti 40 anni, si vanno a prendere i soldi solo lì, che siamo lei pensionando, lei 20, pensionando, siamo rimasti solo in 25, lei è pensionando, mila, lei gli altri sono contributivi. Mi ascolti, ascoltatore, mi ascolti, lei è pensionando, deve andare in pensione? Sì, devo andare in pensione. Quando dovrebbe andare in pensione? Nel 2013, forse, ma mi sa che non ci andrò perché sarà... Lei la è tra quelli volta. Che potrebbe rimanere, mi scusi l'espressione, fregati se ci fosse un intervento sulle pensioni, perché... Potrebbe sì, ma quello esserci... che volevo sottolineare, siamo ormai rimasti 25.000 quelli retributivi, tutti gli altri sono contributivi. Comunque volevo dire una cosa, il signor Straguadagno che parla e riparla, e volevo provocarlo, ma com'è che non comincia lui con la sua pensione e i suoi vitalizi? E come mai le categorie, quelle professionali, compresi gli avvocati, / deputati, hanno bocciato la proposta, ci ricorda bene, no? Perché non volevano fare questa finanziaria eccetera eccetera. Andiamola a prendere lì i soldi, andiamo a prendere da questa gente, siamo esasperati. Va non bene, grazie Furio, più. Grazie, i lavoratori grazie. Medi, la gente comune sì. È esasperata. Dove vogliamo arrivare? Dobbiamo arrivare in Inghilterra? Grazie Furio, buona serata, grazie. Cristian da Monza. buonasera. Senta, vedo che mi hanno preceduto gli altri ascoltatori. Io volevo soltanto dire che mi sembra una manovra raffazzonata e fatta da chi praticamente non ha seguito nulla del paese fino ad adesso, si è interessato soltanto di proteggere il Presidente del Consiglio. E la cosa che mi spaventa di più è che anche l'opposizione credo che abbia soltanto incanalato le sue energie nel dire che Berlusconi è inadatto a governare il paese. Qui non si parla di nient'altro che tagli di tagli strutturali, ma che praticamente non si faranno mai. Non si parla di cose reali, si parla soltanto di mettere le tasche ai cittadini che onestamente nelle tasche non hanno quasi più niente. Quindi è una cosa veramente, secondo me, incredibile. Cioè, non si pensa neanche a quello che sarà poi il futuro e il paese avrà sicuramente delle infrastrutture in ginocchio tra poco diminuire la spesa sociale sarà sicuramente il primo passo per poi poter reinvestire tra qualche anno delle infrastrutture che sono da un paese non del terzo mondo, perché non sarei drastico, ma da secondo sicuramente, da paese ex sovietico, diciamo. Grazie Cristian. Devo dire che anche i resoconti della giornata di ieri, attesissima giornata, la riunione delle commissioni con Tremonti che parlava, quello che si è saputo, insomma, che, poi c'erano i microfoni accesi, per cui ci sono anche gli audio, non era eccitantissimo, cioè era più una serie di battute, Tremonti su Casini, Bersani, Di Pietro, ricordate, Bossi, tutta una serie di espressioni, però ecco, non è che si percepisse in loro l'urgenza della situazione e un dibattito, non vorrei sparare sulla Croce Rossa, cioè di nuovo sulla classe politica, però ripeto, i resoconti della giornata non sono stati molto esaltanti, non sembrava che ci fosse un dibattito sulle manovre, sulle misure concrete che dovranno essere prese. Sembra quasi che ci sia, ci perdoneranno, un po' di improvvisazione anche in queste ore difficili. So che c'è un vertice, Maroni, Bossi, Berlusconi, di nuovo l'ennesimo vertice di queste ore, e ripeto, tra poco ci sarà il Consiglio dei Ministri, vedremo se qualcuno tira le fila con un minimo di coerenza. Abbiamo le informazioni sui mercati finanziari e poi tra pochissimo 824 0024. Riprendiamo con i vostri interventi, cari ascoltatori, all'800 24 0024. Giuseppe ci chiama dalla provincia di Napoli. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Innanzitutto volevo fare i miei complimenti per come sta conducendo la trasmissione. Ok, detto questo, mi viene da dire che se la situazione non fosse così drammatica sarebbe quasi comica, quasi da bagaglino. Io sono un dipendente di una società, mi occupo di informatica, guadagno circa 1.400 euro l'anno, il mese, scusi, quindi non cifre altissime. Si chiede ancora, se mi si dovesse chiedere ancora dei sacrifici, non so più dove andare a sbattere la testa. Cioè, giusto per, con la mia compagna volevamo un figlio, solo che non ce lo possiamo permettere, cioè i politici stanno chiedendo dei sacrifici, però dalle mie parti ci hanno detto, glielo dico in maniera edulcorata, è bello fare ed è facile fare la prostituta con il corpo degli altri. I politici in questo momento perché non iniziano a tagliare i propri stipendi? Visto che comunque lo dovrebbero fare per passione, tutti quanti dicono che si sono messi in politica per passione, ok, allora 3.000 euro al mese sono più che sufficienti. Sì, cioè, per lei una teme, passione... che cosa teme in particolare? Cioè... Però guardi, io oramai non temo più niente, perché dal momento in cui, ad esempio, le faccio un piccolo esempio, è stato tolto l'ICI, tutti quanti, bello, non si paga più l'ICI sulla prima casa, a parte il fatto che giustamente una persona per farsi la prima casa si è indebitato per i prossimi 40 anni, ma non è questa, a meno che non l'abbia avuto di famiglia, non è il mio caso, e quindi non è questo. Però togliendo l'ICI al comune, il comune ha dovuto aumentare altre imposte. Infatti io mi sono visto praticamente triplicare l'imposta, le tasse sull'immondizia o altre, quindi i servizi sono tutti aumentati, cioè quindi io se dovessi sentirmi male, non so se posso andare al pronto soccorso, perché forse mi mancano anche i soldi per il ticket, cioè guardi, è veramente difficile la situazione, io non so i politici cosa hanno in testa. Grazie Giuseppe, e quindi hanno ragione in qualche modo, lei ce lo conferma dal suo punto di vista, gli enti locali che oggi col governo lamentano questo, paventano questo taglio della spesa sociale di fronte a un possibile taglio dei trasferimenti dell'entità che è stata proposta. Salutiamo Tito Boeri, professore alla Bocconi e della Voce.info. Buonasera. Buonasera. Anche editorialista della Repubblica. Oggi in un suo commento proprio sulla Repubblica lei dice: per essere sostenibile la manovra deve essere equa. E leggendo e scorrendo il suo articolo, equa vuol dire che deve contenere varie misure, se non ho capito male ci devono essere risparmi sulla spesa dello Stato, sui trasferimenti agli enti locali, sulle pensioni, liberalizzazioni, magari qualche contributo di solidarietà dei redditi più ricchi. È questo che lei intende, Boeri? Ma intendo che deve essere una manovra principalmente incentrata sulla spesa, perché questo è quanto può far sì che la manovra non abbia degli effetti recessivi pesanti, perché ci sono tante componenti di spesa che possono essere tagliate senza avere degli effetti recessivi. In secondo luogo è fondamentale agire sulla spesa, perché questo è quello che i mercati ci chiedono. Chiedono che il nostro governo si mostri capace di tagliare le spese, cosa che in queste condizioni di emergenza nessun governo da quando siamo entrati nell'area dell'euro è riuscito a fare in modo permanente. Ricordiamoci che è una manovra per la credibilità questa. Cioè il taglio delle, mi scusi se la interrompo, sì, sì, su questo punto, perché mi sembra importante. Lei dice che il taglio della spesa corrente, cioè di tutte, insomma, gli sprechi, io penso questo si intenda, che ci sono sicuramente, è il punto fondamentale, perché senza questo la manovra non sarebbe credibile. Esattamente, noi dobbiamo dimostrare che siamo capaci di tenere sotto controllo i conti pubblici, di abbattere il debito pubblico, e lo dobbiamo fare senza penalizzare l'economia. Siccome i governi italiani si sono dimostrati incapaci, sia di centrodestra che di centrosinistra, in tutti questi anni di tagliare in modo strutturale la spesa pubblica, questo è il banco di prova che ci viene chiesto oggi. Ma perché ogni volta c'è una lobby che interviene e che viene magari strumentalizzata dalla parte politica che si trova all'opposizione? È successo con le liberalizzazioni di Bersani, succede oggi sugli interventi, non lo so, quando si parla di pensioni con l'intervento dei sindacati, è così? C'è questo problema? C'è assolutamente, difatti quando parlavo di equità oggi mi riferivo soprattutto all'equità nei tagli. Ecco, dire che le pensioni devono essere escluse dall'aggiustamento vuol dire che il grosso dei tagli deve intervenire sui beni pubblici, sull'istruzione, sulla sanità, con tagli fino al 15%, perché dato che le pensioni sono il 40% della spesa, arrivano fino al 50% se vogliamo della spesa corrente disponibile, quella che ne possiamo alterare, perché la spesa per interessi sul debito ovviamente è una cosa che non possiamo, su cui non possiamo intervenire. Ecco, se si escludono le pensioni vuol dire che dobbiamo scaricare l'aggiustamento su tutte le altre, su tutti gli altri beni pubblici. A quel punto dobbiamo intervenire davvero con dei tagli molto forti, e se si taglia l'istruzione e la sanità con importi di quel tipo, dal 10 al 15%, inevitabilmente vuol dire compromettere la fornitura dei servizi soprattutto alle famiglie che non hanno la possibilità di poter andare, di poter mandare i suoi figli in una scuola privata o permettersi la sanità privata non convenzionata. Ma quindi qui, sì, una manovra che esclude a priori le pensioni è forzatamente iniqua. Ma chi è che vuole escludere le pensioni? Bossi? O i sindacati? Beh, anche questo voi siete in grado meglio di me di seguire, mi sembra, sì, di sì. Ho sentito la Lega, sì, che ha detto che non voleva, che voleva escludere le pensioni, i sindacati, anche loro, alcuni leader sindacali hanno detto questo. Io invece penso che ci sarebbero margini per intervenire senza alterare gli equilibri. Bisogna intervenire come al solito in modo molto attento, perché la previdenza è una cosa molto delicata, ma si può intervenire per rendere più equo il sistema pensionistico italiano anche dal punto di vista intergenerazionale, cioè i trattamenti che sono riservati alle diverse generazioni e poi anche tra le diverse generazioni. Se sì, posso dire una cosa, sì, sulle prime anticipazioni della manovra, mi sembra, sì, invece che da quello che si legge, io spero di essere smentito fra mezz'ora quando sapremo dalla conferenza stampa, si profili una manovra che è fatta esclusivamente di tasse, perché anche i tagli ai trasferimenti agli enti locali significano nuove tasse, l'abbiamo già visto, gli enti locali sono obbligati in queste condizioni, dato che hanno anche loro delle spese non comprimibili, ad aumentare le tasse. Quindi la risposta del governo in questa condizione di emergenza è quella di aumentare le tasse soprattutto sul lavoro dipendente, mi sembra di capire, perché sono inasprimenti IRPEF il grosso della manovra. Cioè, ci spieghi meglio questa questione degli inasprimenti IRPEF, attraverso quale meccanismo? Mi sembra di leggere che il grosso della manovra sarebbe in questo incremento permanente del prelievo IRPEF sui redditi superiori a 45.000 euro, e ci sarebbe invece un'operazione una tantum per i redditi superiori a 90.000 euro. Quindi fondamentalmente mi sembra che si possa concludere, dato che l'IRPEF è principalmente lavoro dipendente, poi lavoro autonomo che dichiara le tasse, ma principalmente è lavoro dipendente perché viene prelevato alla fonte, vuol dire aumentare ancora di più la tassazione del lavoro, che è la cosa che in Italia è già altissima e che è uno dei fattori che è una delle cose che impedisce al nostro paese di crescere. Quindi se davvero questo fosse il contenuto della manovra, devo dire che il nostro governo ha sprecato un'occasione fondamentale che avevamo, perché in condizioni di emergenza si possono fare quelle scelte difficili che in tempi normali non sono possibili, e non solo ha sprecato un'occasione, ma ci fa fare una manovra che rischia di essere del tutto inutile, che non aumenta la nostra credibilità, che quindi non ci permette di affrontare l'emergenza e che al tempo stesso penalizza ulteriormente la nostra crescita economica. Boeri, ma spero di essere smentito. E invece l'ipotesi di una patrimoniale, di un contributo, di una tassa sui patrimoni sopra, si è detto 100-200 mila euro, qualcuno ha detto sopra il milione, ci sono indiscrezioni e retroscena più che indiscrezioni, cioè ipotesi, ecco, su tutti i giornali. Come secondo lei, ecco, sarebbe quanto potrebbe portare? Sarebbe, è più una cosa demagogica che si dà in pasto così in qualche modo anche a, non lo so, all'opinione pubblica o ai sindacati, oppure potrebbe portare dei soldi nelle casse dello Stato? Guardi, i mercati ci chiedono di essere vogliono gli investitori vogliono credibilità, quindi una operazione una tantum che per un anno dovesse tassare i grandi patrimoni non servirebbe minimamente a risolvere il problema, perché noi riproporremmo il problema ogni anno. I mercati sono preoccupati del fatto che noi non riusciamo a tenere controllo i conti pubblici, che non cresciamo abbastanza, guardano anche là nel tempo, quindi l'operazione di un anno non è questo, loro ci chiedono interventi permanenti. Io sono favorevole a intervenire sui patrimoni, nel senso di spostare la tassazione dal lavoro, dai redditi generati sul lavoro ai patrimoni, per esempio i patrimoni immobiliari, per esempio ripristinare o incrementare la tassa di successione al di sopra di una certa entità dei patrimoni, e valutare anche i trasferimenti patrimoniali di case ai prezzi di mercato anziché a quelli del catasto. La tassa di successione è molto importante, anche aumentare la capacità di rilevare i patrimoni. Bisognerebbe chiedere a tutti coloro che hanno dei patrimoni al di sopra di una certa cifra di rendicontarli sistematicamente, e sarebbe un modo molto efficace anche per contrastare l'evasione fiscale, perché potremmo usare le variazioni nei patrimoni per capire se, per controllare se quanto dichiarato al fisco corrisponde a queste variazioni patrimoniali. Ecco, per esempio, ci sono tutte queste cose che a mio giudizio andrebbero fatte. Avere abolito l'idea della patrimoniale una tantum, soprattutto se una tantum a mio giudizio non servirebbe, rischierebbe di spingere molti capitali verso l'estero. E invece mi scusi, no, prego. E non sarebbe risolutiva sui mercati, ripeto, perché non aumenterebbe la nostra credibilità. E invece un'ipotesi di tassa sulle rendite finanziarie, anche in questo caso? Che ne pensa? Questo mi sembra un'operazione giusta, se ne parla da molto tempo, io stesso l'avevo più volte richiesta, spero che questo intervento venga confermato e dobbiamo saperlo, di importo limitato, ma mi sembra giusto, soprattutto se viene fatto bene, cioè armonizzando le aliquote. Non si vede perché i depositi devono essere soggetti ad una certa aliquota, gli interessi le rendite da investimenti finanziari devono avere un'altra aliquota, e insomma, quindi armonizzare tutto questo e poi cercare di portarle vicine alle aliquote sul lavoro è una cosa giusta, perché in prospettiva appunto l'idea è quella che dobbiamo ridurre le aliquote sul lavoro, aumentare quelle di altra natura. Senta, ma secondo lei chi è che sta guidando un po' questa situazione, questa partita economica? Il ministro Tremonti, che si è sempre detto è il garante dell'Italia in Europa o sui mercati, eccetera, o Berlusconi? Perché oggi leggevo un retroscena di Alemanno che diceva quando Tremonti elencava i tagli che andrebbero fatti, Berlusconi storceva il viso, la faccia, in un'espressione poco convinta, e dice spero quindi che qualche cosa cambierà. C'è questo dualismo nel governo, chi dice l'ultima parola secondo lei? Guardi, queste sono cose che sapete fare meglio di me. Io l'unica cosa che posso dire è che ieri ho sentito l'audizione di Tremonti alla Camera e che mi è sembrata quasi irridente, quasi offensiva nei confronti del nostro Parlamento, perché non si può andare in Parlamento e non dire nulla, dare dei titoli così generici in una situazione di questo tipo, cioè piuttosto io trovo in questi contesti meglio non andarci, ma se si va in Parlamento e si presenta quello che si vuole fare, bisogna assolutamente essere più... Diciamo che quella di ieri è stata una seduta abbastanza inutile, insomma, in effetti non è venuto fuori nulla. Ecco, però attenzione, sì, perché in questi tempi i discorsi inutili, l'abbiamo visto col discorso di Berlusconi al Parlamento la settimana scorsa, sono peggio dei non discorsi, davvero, perché bisogna davvero stare molto attenti in tutti i segnali e non bisogna cedere nei segnali, nelle prese di posizione, bisogna... quando si fanno delle conferenze stampa, andare e annunciare dei provvedimenti concreti e rassicurare, dire le cose. Questa andare continuamente, conferenze stampa, interventi che poi non dicono assolutamente nulla, a mio giudizio rischiano soltanto di aumentare l'incertezza, e in questo contesto davvero è qualcosa che ce n'è fin troppa, quindi bisogna, e c'è troppa paura in giro, per cui bisogna davvero rassicurare dando delle risposte. Grazie Tito Boeri, buona serata. Grazie a voi. E, insomma, il Consiglio dei Ministri ci sarà più tardi, vedremo cosa ne uscirà. Intanto facciamo una pausa per il traffico e poi rientriamo tra pochissimo all'800 24 00 24. 18:49, eccoci qua con i vostri interventi. Riprendiamo da Marco che ci chiama dalla provincia di Siena. Buonasera. Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Grazie, ci fa piacere, prego. A parte il fatto che questi politici sia di destra che di sinistra andrebbero mandati tutti a casa, ma passiamo a quello. Ecco, che cominciamo così con un intervento poco, diciamo, poco demagogico, poco qualunquista. Ma è il tono dominante però in questi giorni. Lo so, perché non si comportano più, credo. La BCE, tra le cose che ha scritto, sempre ha scritto quello di tagliare la spesa pubblica, cioè gli stipendi. Io ho una piccola azienda, sono socio, abbiamo passato gli ultimi 3 anni con una forte crisi. Le prime cose che sono saltate sono saltati gli stipendi, diminuzioni, cassa integrazione, licenziamenti. Io non sento mai parlare di questo dai nostri politici, anzi si aspettano sempre molto semplicemente a rassicurare tutti. Consideriamo che questi che lavorano nel pubblico hanno molti privilegi, come l'orario di lavoro e gli stipendi. Non so che cosa ne pensi lei. Grazie a Marco. Sentiamo invece cosa ne pensano gli ascoltatori, anche se il tema è un po' sempre quello. Anna da Frosinone, buonasera. Buonasera. Sì. Buonasera. Senta, io condivido tutte le perplessità e le osservazioni negative intorno a questa manovra, mi sembra ovvio. Ecco, però volevo aggiungere un problema. Mi sente? Sì, perché le sembra ovvio che ci siano delle perplessità sulla manovra? Mi spieghi meglio. Sì, ecco, cioè, ma quello che ieri diceva il ministro Tremonti a proposito della praticamente abolizione delle feste civili del 2 giugno, del 25 aprile, del 1 maggio, accorpandole alle domeniche. Ecco, questo è un provvedimento che, insomma, tocca la sensibilità degli italiani che ancora ci credono a questi valori civici e che non vogliono rinunciarci. Devo dire che una buona proposta l'ha fatta, tanto per citarlo ancora una volta, Giuliano Cazzola, che ha detto piuttosto che abolire queste 3 festività che sono in effetti un po' le uniche civili rimaste, 2 giugno festa della Repubblica, 25 aprile festa della Liberazione, 1 maggio festa dei lavoratori, che poi anche qua si aprono polemiche su polemiche, ma lasciamo perdere, si potrebbero abolire tutte le feste dei patroni locali, che sono tantissime, tutte diverse, in giorni diversi, e che spesso contribuiscono a interrompere la produttività, se questo è il problema, piuttosto che intervenire su queste che sono rimaste le uniche tre festività nazionali. C'è da dire che in tempi di austerity, qualcuno lo ricordava sui giornali anche oggi, il governo Andreotti, non ricordo più che anno fosse, era intervenuto su ben sette festività. C'era la crisi petrolifera, c'era la crisi anche lì della lira, e da qualche parte bisognava intervenire. Non so poi quali siano gli effetti reali sull'economia di un provvedimento come questo. Credo che Tremonti l'avesse inserito nel calderone senza una grossa speranza anche, ecco, che ne esca qualche cosa di significativo. Antonio da Asti, buonasera. Buonasera, buonasera. Prego. Buonasera. Un secondo solo che spengo la radio. Eccoci qua. Antonio ha spento la radio. Spero che la radio non sia dall'altra parte della casa, perché sennò dobbiamo... Aspetta. Giusto anche per cambiare un attimo il tono della discussione. Sì. Che si parli di problematiche importanti. Però ci sfugga, almeno mi pare di percepire dalla discussione generale, non nessuno parla più di ripristinare il conflitto di interessi. Io vedo nel corso della mia attività, vedo tantissimi professionisti, anche altolocati, anche notai, che evadono. Viene l'idraulica a casa, non gli chiediamo la fattura, non ce la fa, nessuno ne parla più. Parliamo di andare ad abolire. C'è quasi una resa da questo punto di vista. Lei ha ragione, sembra quasi che siano irrecuperabili queste forme di evasione che ormai fanno parte del DNA degli italiani. Ci perdoneranno gli idraulici che pagano le tasse regolarmente, prendiamo sempre loro come esempio. Però è vero, cioè, ormai ci siamo arresi a questo, bisognerebbe fare qualcosa. Prego. Sì. I giudici fuori ruolo. Ci sono dei presidenti di autorità anche piuttosto importanti che, pur percependo le somme decisamente importanti, continuano a percepire l'indennità di giudice. E lei probabilmente ha capito a chi mi riferisco. Non ne parla no, non ho capito a chi si riferisce. C'è il presidente della GCOM, per esempio, che pur percependo 500.000 euro annui, continua a percepire lo stipendio da magistrato fuori ruolo. Questo non lo sapevo. Sì, guardi, c'è stata anche una trasmissione di report piuttosto importante, vorrei che magari anche parecchi altri ascoltatori, cioè voglio dire, sono cose, ci sono tantissimi magistrati fuori ruolo che continuano comunque a percepire lo stipendio da magistrato pur svolgendo altri ruoli, perché anche qui nessuno ne parla più. Va bene, grazie Antonio. Passiamo a Giorgio che ci chiama da Latina, buonasera. Buonasera. Prego. Io sono Giorgio da Latina. Sì, e fin qua ci siamo. Sì. Ho 63 anni. Sì. Lavoro disoccupato, ma da molti anni. Lavoro disoccupato, questo non è male. Questo va benissimo. Non cioè, male. Lei lavora o è disoccupato? No, disoccupato. Non c'è lavoro per me. Sì. Non esiste. Malgrado abbia fatto molte cose nella vita. Ma lei a 63 anni è più da pensione piuttosto che da... No, è da, ma chi me la dà una pensione a me? Chi? Perché ho fatto l'artigiano, ho fatto il ristoratore, ho fatto di tutto, ma a me mi hanno sempre tartassato, mi hanno sempre rovinato, malgrado mi sia comportato sempre benissimo. Mm. Comunque io le volevo dire una cosa. Sì. Da un numero di gente, il Belgio, paradiso senza governo. Noi parliamo di governo, ma cos'è il governo? Questa è la domanda esistenziale. Fanno i debiti, li dicono tutti, giusto, no? Dicono tutti. Fanno i debiti, ma chi li paga i debiti? Se io faccio i debiti, chi li paga? Io. Il governo, che li pagassero? Perché prendono tanti, tanti di quei soldi, benefici, auto blu, più chi ha più ne metta. Non è possibile andare avanti a queste condizioni. Che andassero tutti a casa, tutti. O tutti in Belgio. Tutti. Sì, bravo, ha ragione. Sì. Io oramai però mi scusi Giorgio, però credo che sì, credo però che sia, grazie Giorgio, credo però che sia un caso il fatto che il Belgio senza governo, come qualcuno ha messo in evidenza, non ha problemi economici in questo momento, ha molti altri problemi, è un piccolo paese. Giorgio è ancora là che parla, pronto? Nel mattone. Sì, cosa c'è col mattone, Giorgio? Il mattoni perché risparmiavamo, oggi non ci vanno a risparmiare più. Oggi sono andato a fare il gasolio, su 60 euro mi danno 40 litri, 25 litri, 30 litri in meno. Sono tasse, tutte tasse. La RAI, chi lavora alla RAI, ha un buon beneficio, prende milioni e milioni di euro. Chi lavora all'Agenzia delle Entrate, 30 milioni e rovina gli italiani. Chi lavora in Equitalia, rovina gli italiani e prendono montagne di soldi, nelle province prendono montagne di soldi, dappertutto si prendono montagne di soldi, quello è purtroppo quello che noi ci abbiamo alle spalle tutti, indefinitamente tutti. Lei non è d'accordo? Grazie Giorgio, io sono d'accordo su una parte sicuramente di quello che lei dice, più tardi magari leggeremo anche una lettera particolarmente indignata che ci è arrivata da un ascoltatore e che è in linea con quello che diceva lei. Abbiamo però il giornale radio, ci ritroviamo subito dopo. Numero verde 824 0024 per intervenire in diretta anche questa sera, cari ascoltatori, potete scriverci anche al 349 238 6666. Cominciano a uscire le prime indiscrezioni della manovra, tra poco le sentiremo, abbiamo i titoli però dei telegiornali Sky TG24. Piano anticrisi, tra poco il Consiglio dei Ministri, manovra da 45 miliardi aggiuntivi. Previsto un contributo di solidarietà per i redditi sopra i 90.000 euro. Nel piano anche Italia, province e comuni, ma non riguarderanno la sanità. Enti locali sul piede di guerra, Formigoni e Alemanno, così si stroncano i servizi. Il debito pubblico non si ferma più, sfondata la quota record di 1.900 miliardi. Le borse chiudono in positivo una settimana infernale, Milano vola a più 4%. Londra per Scotland Yard, le violenze sono finite, sale a 5 il bilancio dei morti. Agguato in strada a Reggio Calabria, muore un pregiudicato, ferito un passante. Collisioni a Ischia, erano drogati, i due marinai fermati, poche speranze per i due dispersi. Per agosto in tempo di crisi, italiani in partenza, ma sulle strade c'è poco traffico. E tra dicevamo le anticipazioni, quello che esce dal Consiglio dei Ministri proprio in questi minuti, leggiamo velocemente solo i titoli: a rischio la tredicesima dei dipendenti statali, ritardato il TFR di 2 anni per i dipendenti statali, l'età delle pensioni per andare in pensione delle donne sale dal 2015, abolite, cioè chiuse in qualche modo le province sotto i 300.000 abitanti, ripeto, sono titoli, non è che si capisca molto di più. Stop ai ponti e alle feste spostate al lunedì, quindi non alla domenica come chiedeva Tremonti, ma al lunedì. E poi rischio chiusura degli esercizi senza lo scontrino fiscale, ripeto, sono titoli, tra poco forse ne sapremo qualcosa di più. Intanto TG3. Sarà una manovra da 45 miliardi quella che il governo sta per varare, confermato il prelievo sui redditi più alti, obiettivo pareggio di bilancio nel 2013. Dura reazione degli enti locali ai nuovi tagli in arrivo, iniqui e insostenibili, dicono comuni, regioni e province, è la fine del federalismo fiscale. Bossi, nessuna sconfitta per il federalismo fiscale, sulle pensioni vigilo io, Berlusconi costretto a mettere le mani nelle tasche degli italiani. Fuoco incrociato su Tremonti, nel mirino anche della maggioranza, opposizione colpiti i deboli, Bersani pronta, manovra alternativa. Napolitano attende il varo della manovra, momento delicatissimo, grave rischio per l'Italia, responsabilità e coesione. Tutte in gran rialzo le borse europee, Milano più 4%, lo stop alle vendite allo scoperto scattato oggi, frena la speculazione. 2 giorni fa la voragine a Casalnuovo, 1 anno fa il crollo di una palazzina da Fragola, 2 comuni confinanti dove le strade sono tutte a rischio frana. Destra, e lo scandisco perché è una dichiarazione importante. Credo che su questi temi il centrodestra rischia di scontare la sua sconfitta epocale. Perché se noi non aboliamo le province, Dico di più, se noi, come suggerisce Formigoni, non riduciamo le regioni, se noi non facciamo queste cose, non ci viene perdonato. Così il ministro Rotondi un paio di giorni fa, a proposito della necessità ormai ritenuta impellente, almeno da lui, di abolire le province, di chiuderle. Adesso c'è una non so come definirla, una proposta, perché attenzione, si parla dalle prossime elezioni è prevista la soppressione delle province sotto i 300.000 abitanti. Ne abbiamo sentite talmente tante che insomma non lo so quanto valga questa questione del dalle prossime elezioni. Intanto però è curioso che Rotondi, che dà tutta questa importanza all'abolizione delle province, è proprio lui che negli anni scorsi, recentemente, sono tutte proposte dal 2006 ad oggi, si è fatto firmatario di diverse proposte per istituire nuove province. Attenzione, la provincia di Avezzano, per esempio, con la provincia di Marzi, con capoluogo Avezzano comprendente 37 comuni, proposta di legge del 2006, firmatario lo stesso Rotondi insieme a Giampiero Catone, oggi onorevole dei responsabili. Oppure sempre Rotondi ha sostenuto l'istituzione per legge della provincia di Sulmona con capoluogo omonimo. Oppure sempre lo stesso Rotondi si è fatto portatore della proposta di legge non la trovo più, ma ce ne sono tante, perché di proposte di legge per istituire nuove province ce ne sono moltissime, come quella di Sibaritide Pollino, scusate, non riesco neanche a pronunciarla, è incredibile. E tutto questo sarebbe stupendo se non fosse che in ballo c'è una manovra da 50 miliardi di euro. Del resto, lo stesso Rotondi, credo sempre ai microfoni di Radio 24, sulla parola data dai politici la definiva valida nel momento stesso in cui veniva espressa e non quindi una promessa di lungo periodo. Sentiamo Rotondi su questo. Ricordare la regola per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono. E chissà se anche quello che leggiamo adesso dalle agenzie che ci riferiscono delle proposte che escono dalla bozza esaminata dal Consiglio dei Ministri sono alla stregua di quello che dice Rotondi, cioè promesse fatte lì per lì. Dalle prossime elezioni è prevista la soppressione delle province sotto i 300.000 abitanti. Questo è quello che esce fino ad ora. E ecco anche il contributo di solidarietà. Un'ultima agenzia è questa, confermato il contributo sopra i 90.000 euro. Un contributo pari al 5% e del 10% invece sulla quota eccedente i 150.000 euro. Ci ha raggiunto il prossimo ospite, Gian Vittore Vaccari, senatore della Lega Nord, sindaco di Feltre, o Vaccari. Vaccari, grazie. Vaccari. Saluti a tutti. Saluti, buona serata, sindaco. Senta, di onorevoli col doppio incarico ce ne sono molti, sindaci, presidenti di province, consiglieri e onorevoli, ma di onorevoli che hanno un ruolo in un'amministrazione locale e che sono stati sfiduciati da questa maggioranza proprio per la questione del doppio incarico, credo che lei sia l'unico, è un record. Ci spiega che è successo a Feltre? Sì, allora intanto un caro saluto a tutti, fa piacere parlare di queste cose. Anche a noi, prego. Allora, la discussione che ha avuto il mio consiglio comunale ha discusso su questo... Un paese di 20.000 abitanti, quanti abitanti fa? 20.000 abitanti. Ecco, premettiamo che io sono legittimamente, secondo le norme, sì, sindaco e senatore. In provincia di Feltre si trova, scusi, sindaco? Di Belluno, perfetto. Qui non c'è nessuna incompatibilità, nessuna irregolarità, nessuna illegittimità, no? Ecco. Sì, non c'è incompatibilità perché non c'è incompatibilità perché lei è diventato prima sindaco o prima parlamentare? No, perché il mio comune, secondo il censimento, ha meno di 20.000 abitanti. A meno di 20.000, ok, perfetto. Però? Dicevo che il Consiglio Comunale, in questa discussione sui costi della politica, sulle rappresentanze ed altro, anche nella semplificazione, ha ritenuto che certe cariche, voglio dire, non è giusto che siano portate avanti dalla stessa persona. Io ho un'opinione un po' diversa e quindi ha votato non contro di me, ma ha votato una delibera che generica direttamente dice ma contro chi? Contro di lei? Ma anche lei, contro, no? Di me, se vogliamo, sì, ma non ad persona, ecco, non l'ho presa come tale. E quindi? E quindi è una delibera così di indirizzo politico sulla discussione che c'è in ambito nel Paese per quanto riguarda le istituzioni, ma questo non toglie nulla che io continuo a essere legittimamente sindaco della mia città e anche parlamentare della Repubblica. Ma perché gliel'hanno chiesto lei, sindaco, di fare un passo indietro? Ci sarà un motivo? Me l'ha chiesto l'opposizione, perché l'opposizione ritiene che... Però hanno votato anche alcuni della maggioranza, mi scusi, dica tutta la verità. No, nessun problema. La delibera l'aveva posta di legittimità di legge l'opposizione, è stata poi ritirata dall'opposizione perché sapeva che era sbagliata. Un consigliere di maggioranza ha proposto una delibera votata da lui, unico consigliere di maggioranza da tutta l'opposizione, quindi voglio dire non è che la maggioranza ha votato contro il sindaco, solo un consigliere. Questa delibera politica che dice che in Italia non dovrebbero esserci doppi mandati o tenuti nel carico della stessa persona. Ecco, lei non è d'accordo su questa semplice richiesta, cioè non pensa che il doppio incarico sia una di quelle cose che poi fanno aumentare negativamente la distanza, come si dice tante volte con un'espressione fatta, tra i cittadini e la politica? Il discorso è molto lungo, penso che abbiamo i tempi un po' stretti. Io dico questo, innanzitutto lei, c'è anche un vantaggio anche economico per tutto sommato, perché io ho comunque un'unica indennità, io nel mio comune non costo nulla, quindi vuol dire quelle che sono le mie indennità sono circa 30.000 euro l'anno e le posso utilizzare come fondi sociali e quindi per venire incontro ai miei cittadini. Inoltre tutto, io muovendomi come sindaco ho bisogno anche di andare in istituzioni regionali o parlamentari ed altro, ci sono anche naturalmente, quindi è un vantaggio anche per l'attività che faccio per i miei cittadini. Io poi ritengo che se uno svolge, io ritengo che ci dovrebbe essere delle istituzioni tipo il Parlamento, il Consiglio regionale ed altro, rappresentati in parte anche da amministratori locali, perché se no facciamo. Ma che vuol dire, scusi, non capisco, scusi, romana e sì, quella locale. Ma la vicinanza tra gli enti locali e Roma non è che si fa mettendo le stesse persone a fare il doppio lavoro, perché in l'opposizione parte, quello che le contesta, come in tutti i casi di doppio incarico, secondo me in maniera sacrosanta, è che lei quando è a Roma non può essere a Feltre, paese di 20.000 abitanti, che però ha pur sempre diritto ad avere il sindaco a tempo pieno. D'accordo, guardi, questo qui è una continua querela. Io ritengo di poterlo svolgere correttamente. No, non è una querela, è una richiesta che le viene fatta. Lei riesce a fare il sindaco, ma cosa fa? Metà settimana la passa a Roma, metà settimana Guardi, volentieri riapro la discussione, non ho problemi. Sì. Io svolgo. Guardi, l'ha riaperta il suo consiglio comunale, non è che la riapro io, con questa delibera votata qualche settimana fa. Sì. No, ma voglio dire... Guardi, questa qui è una questione che esce ogni giorno sui giornali. Io comunque quando vado dai miei cittadini delle riunioni pubbliche e gli dico che sono andato a Roma e sono riuscito a tornare con dei finanziamenti per mettere a posto una scuola, sistemare una strada o comprare un nuovo mezzo pubblico, la signora che è del paese, che conosce le cose, mi dice: sindaco, bravo, vai ancora a Roma e portaci ancora qualcosa. Quindi, tutto sommato, io penso anche ai miei cittadini che mi dicono che va bene così. Poi le querele che mi fa l'opposizione, ovvio che gioca ognuno la sua parte. Senta, ma il sito del comune dice che voi avete più di 20.000 abitanti, 20.962 per l'esattezza, quindi... Sì, ma guardi... Sì o no? Lei ha detto che abbiamo meno di 20.000 abitanti, adesso ne avete di più. No, la cosa è molto semplice, le mie elezioni vanno col censimento del comune di Italia che è del 2001, nel 2001 io avevo meno di 20.000 abitanti. Nel prossimo censimento, quello del 2011 che si sta facendo, Sì. Se ripete avrà più di 20.000 abitanti. Quindi lei di fatto diventerà incompatibile. Sarà ineleggibile secondo le norme e io certamente rispetterò la norma e non andrò a voler avere doppi mandati. Insomma, lei è deciso a fregarsene di quello che dice la sua stessa maggioranza in Consiglio Comunale. Oltre che naturalmente dell'opposizione, di questo ha tutto il diritto, la maggioranza che lo sostiene, la messa in minoranza. Quanti sono i voti contrari alla delibera, mi scusi, per capire, perché lei dice che è solo l'opposizione, però mi risulta che invece anche la maggioranza che la sostiene, sindaco, si sia schierata contro di lei. No, guardi adesso. Quali sono i numeri del voto? No, guardi, c'è un unico voto della... della maggioranza che ha votato con l'opposizione, un unico voto. Siccome c'erano, dico, lo ammettiamo purtroppo quel giorno, c'erano anche delle assenze, abbiamo una consigliera che ha appena avuto un bambino, era in difficoltà, una persona che per lavoro era assente, ovviamente in questo caso la maggioranza era numericamente maggiore in consiglio comunale, perché un consigliere di maggioranza, cioè scusi, l'opposizione era maggiore, perché un consigliere di maggioranza ha votato con l'opposizione, punto. La maggioranza è 11 consiglieri, l'opposizione è 9 consiglieri. Però in questo caso siete andati sotto, sì. Uno ha votato, un consigliere di maggioranza ha votato con l'opposizione e due consiglieri di maggioranza erano assenti, per cui io direi, non, ma la maggioranza è 11 è a 9 in consiglio comunale. Comunque qualcosa sarà successo se anche lei ha sentito bisogno di scrivere una lettera ai cittadini per spiegare tranquilli, resto al mio posto. Non so se li ha tranquillizzati moltissimo, però questo è quello che ha fatto. Un attimo, ecco, siccome questa delibera non ha nessun effetto, penso che sia giusto che il sindaco avvisi i propri cittadini che questa è una delibera che non ha effetti di tipo giuridico. Quindi insomma lei ribadisce il fatto che non è una questione di tempo il fare il sindaco, il parlamentare, è una questione di... Allora, cioè lei può stare tranquillamente sì, non nel suo paese, essendo il sindaco del suo paese, questo lei sostiene? Io sostengo che questo, che, allora, io allora, se uno può stare ovviamente 24 ore sul proprio paese, per certi versi potrebbe essere anche opportuno. Ma solo per certi versi. Ci sono però delle condizioni. Sì. Scusi, ci sono anche delle condizioni di opportunità. Stiamo parlando in questo momento di difficoltà, di crisi, di necessità magari di interloquire con altre istituzioni, di modifiche che stanno avvenendo di leggi, che stanno cambiando un po' radicalmente tutto il nostro paese. Credo che poter portare il pensiero dei miei cittadini, il pensiero dei miei cittadini nelle città dove si decide, penso sia un vantaggio. Cioè, secondo lei addirittura auspica che tutti i sindaci possano essere parlamentari o avere un doppio incarico? No. Questo sta dicendo? Beh, non è. No, adesso non generalizziamo, per piacere. Ho detto che, è utile che ci possa essere una rappresentanza anche di sindaci nelle varie, ad esempio, in questo caso nel Parlamento. Secondo me sì, e ho diversi colleghi che lo sono, e che assieme stiamo facendo un'azione importante proprio di rappresentanza di enti locali, come devono essere tutti necessariamente. Guardi, io non comunale. Mi ha convinto, però non doveva convincere me, ci sono gli ascoltatori che ascoltano e gli elettori che votano. Io la ringrazio, ci fermiamo qua, abbiamo i mercati finanziari, grazie Sindaco Vaccari di Feltre, in provincia di Belluno. Buona serata, 824 00 24 Borse. 19.37, cari ascoltatori, eccoci qua con i vostri interventi all'824-0024. Abbiamo Giorgio che ci chiama da Milano. Buonasera. Pronto? Sì, Giorgio, buonasera, in linea. Buonasera, dottor Dario Ceccarelli. La ringrazio molto del collegamento. Ha sbagliato, guardi, non è Dario Ceccarelli qua, è un altro programma, è La Zanzara, io sono Alessio Maurizi. Dario Ceccarelli, il giornale radio, sì. Chiedo scusa, Alessio Maurizi. Sì. Era un po' distratto. Prego, prego, cosa voleva dire? Emozionato. Sì. No, comunque voglio farvi complimenti perché siete il giornale numero uno in Italia. Senta, io dopo 53 anni di lavoro ho smesso di fare l'imprenditore e sono veramente indignato di quello che continuo a sentire da parecchi giorni. Perché quando un'azienda va male è inutile chiedere i soldi ai miei clienti, perché i clienti non mi daranno mai un soldo di più di quello che è il prezzo giusto del mercato. Ma la prima cosa che devo fare per non far fallire la mia azienda, devo controllare le entrate, cioè devo controllare che la mia azienda venda, fatturi e incassi i soldi, perché se la mia azienda non incassa i soldi, la mia azienda fallisce. Per uno Stato è esattamente la stessa cosa. Se lo Stato non incassa i soldi delle tasse, lo Stato fallisce. Pertanto, tutti gli artigiani, i ristoratori, i medici e i professionisti che talvolta ci ricattano un pochettino così con la loro supremazia, devono fare la fattura o la ricevuta fiscale e la devono pagare. Ma è un onore per il cittadino, è un onore per il professionista aiutare lo Stato italiano. Ma soprattutto sono i nullatenenti quelli più pericolosi e più costosi per lo Stato italiano, perché ci sono i nullatenenti, alcuni, che hanno delle fiduciarie statiche o che hanno i trust o quelli che hanno le Porsche, le Ferrari intestate a una società di autonoleggio di cui loro stessi sono proprietari. Ma se tutti questi non pagano le tasse, lo Stato fallisce. Grazie Giorgio, grazie, grazie, buona serata. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. Senz'altro tra le cose che non si possono più fare, le sprechi che non si possono più fare, il paragone tra Stato e azienda l'hanno fatto molti ascoltatori, Stato è come un'azienda, le entrate e le uscite se non collimano e c'è il debito, e allora bisogna sicuramente tagliare le spese. Una cosa che sicuramente non si potrà più fare è avere la mensa, il ristorante di lusso della Camera e del Senato con i prezzi 3,60 euro che abbiamo visto in questi giorni per la spigola, è una cosa pazzesca naturalmente, e infatti oggi la notizia è che il questore di Palazzo Madama, il leghista Paolo Franco, dice c'è arrivata l'indicazione, la disposizione di rivedere la proporzione dei costi. Però solo qualche giorno fa, proprio alla Zanzara, da Cruciani e Parenzo, il esponente ex PD, adesso credo gruppo misto, Riccardo Villari, lo ricorderete al centro della querel sulla commissione di vigilanza Rai, lui non era stato eletto per caso, non se ne voleva andare, minimizzava così il ristorante di lusso a pochi euro della Camera e del Senato. Il prezzo è quello e alla fine corrisponde più o meno a quello che mangi. Una mezza schifezza, come si chiama? Una mezza schifezza, una cosa da mensa, una cosa da mensa. Bravo, ho usato il termine esatto. Una mensa di buona qualità, però una mensa, c'è buona volontà, non stiamo parlando di un ristorante da 50 euro a persona, stiamo parlando di un ristorante che si mangia meglio alla Camera, per esempio, sono dei pochi che lo dici. Se dovessi scegliere di andare alla Camera. Vabbè, questo non c'entra nulla, si mangia meglio alla Camera che al Senato, però non è che alla Camera che al Senato si mangiasse male a quello che abbiamo letto. Ancora Villari. Io sarei del parere che ci può essere una parte del ristorante che garantisce un servizio di mensa, come accade dappertutto, veloce e con una scelta ridotta delle pietanze ai prezzi, diciamo, che sono quelli concorrenziali, e poi per chi ha più tempo, più voglia, un'altra è in una condizione in quel momento di poterselo consentire, un ristorante alla carta dove si pagherà 40 euro. Riesco a mandar giù. E anche qua vedremo se quello che viene annunciato, cioè il riequilibrio del costo, insomma, fateli pagare il prezzo normale, non possiamo permetterci di pagare le cene dei parlamentari. Vedremo però se questa notizia è destinata ad essere confermata oppure ad essere successivamente smentita. Ascoltatori, Claudio da Modena, buonasera, prego. Sì, salve, buonasera. Grazie per il preambolo, perché io volevo chiamare proprio per quello. Sì? Ho sentito la notizia nella trasmissione precedente di Barilloni e avrei voluto chiamare, ma non è possibile. Ho fatto il conto, no? Un po', meglio un po' azzardata, 20 milioni di euro all'anno. E poi dopo si conclude sempre dicendo: ma non sono queste le cifre. Sì, non sono mai queste, sono sempre quelle altre. Sì, sì, è vero. Sì, ma un miliardo, no? Perché poi noi siamo bravi a fare un sacco di cose, ma almeno per fare i conti. Un miliardo sono 1.000 milioni. 1.000 milioni diviso 20 milioni sono 50. Quindi 50 iniziative ridicole che sembrano essere tacciate di ridicolaggine, no? Ma 20 milioni togliamo queste mense, 20 milioni tutte le pensioni dei colonnelli che diventano generali, 20 milioni le province, 20 milioni i doppi incarichi, 20, se uno fosse veramente un buon padre di famiglia gli fa questi conti. E cosa ci viene fuori? Non sono spiccioli, sono milioni alla volta che diventano centinaia di milioni alla volta, che guarda caso possono diventare un miliardino. Qui ci sono degli stravolgimenti politici per delle manovre da 5-6 milioni di meno denaro dato agli enti, sì, agli enti pubblici, ma qui ovviamente ne buttiamo via. Ma grazie, intanto ci sono delle altre notizie sulla bozza che è entrata in Consiglio dei Ministri, la bozza insomma di interventi economici che prevedono, tra l'altro, nessun intervento sull'IVA e sugli immobili e sui patrimoni. Invece, come diciamo, è confermato il contributo di solidarietà per i redditi sopra i 90.000 euro, l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie al 20%, esclusi i BOT, disincentivi per le pensioni di anzianità. Stiamo andando, naturalmente, per titoli, per i dettagli c'è tempo. Allora io invece sentirei un altro ascoltatore, che è Antonio, che ci chiama dalla provincia di Brescia. Buonasera. Buonasera, grazie di avermi richiamato. Prego. Guarda, io ho detto anche al vostro centralino, io faccio il sindaco di un paese di 4.000 abitanti di Palermo. Ha sentito Vaccari, il sindaco di Feltre, provincia di Belluno? Che ne pensa? Purtroppo no, perché siccome non sono un professionista della politica, che ormai ci confondono tutti uguali, io sono dovuto andare a prendere i bambini dai nonni, perché dopo aver fatto lui dice sindaco... che da sindaco a sindaco, gliela voglio porre, lui dice che si lavora meglio avendo il doppio incarico come parlamentare, perché riesce a fare più cose così, anziché come gli chiede l'opposizione di mettersi perché è un sindaco part-time. Ma diciamo di non dire sciocchezza, perché potrei portare esempi di doppi incarichi qui su Brescia di gente che non fa bene né uno né l'altro, quindi eviterei, nel senso che basterebbe far bene il proprio lavoro con delle indennità adeguate e non super, super spaziali, perché proprio in questi giorni qui un quotidiano di Brescia, il Brescia Oggi, ha fatto un'inchiesta su quello che costa un consigliere regionale. Sono cifre iperboliche, soltanto in busta paga si trovano circa 12.000 euro. E dicevo proprio questo, siccome vogliono accorpare i piccoli comuni, guarda, nei piccoli comuni ci sono assessori che prendono 150-200 euro al mese senza nessun tipo di rimborso, quindi sono più i soldi che ci mettono tra telefono, benzina e quant'altro, e danno dei servizi esemplari. Abbiamo i bilanci che sono in ordine, ce li hanno messi in disordine perché hanno voluto fare una manovra politica e di campagna elettorale, togliendoci i lici, quindi buttandoci un po' tutto quanto le ortiche. Adesso vogliono venire a colpire noi che di fatto facciamo del volontariato nelle piccole comunità e rispondiamo in prima persona ai cittadini, perché noi rispondiamo a livello politico, amministrativo, civile, penale, e ci mettiamo la faccia tutti i giorni dando delle risposte concrete tutti i giorni. Io mi chiedo a quelli che i consigli regionali, i vari parlamentari, tutte quelle commissioni, sottocommissioni, che non rispondono mai ai cittadini, rispondono solo a se stessi e ai capibastone. Cioè, voglio dire, se il problema dell'Italia sono i piccoli comuni, mi sembra che stiamo perdendo veramente un pochino la... Grazie. Io non lo so, Antonio, se è come dice lei, però certo, lei dice un sindaco come me di un piccolo paese guadagna una piccola indennità, e certo, pur svolgendo dei servizi, certo non è questo lo spreco, e quindi lei dice la fusione dei piccoli comuni vuol dire che siamo alla canna del gas. Sicuramente siamo alla canna del gas, per cui bisogna fare tante cose per uscire da questa situazione. E poi io sono d'accordo con l'ascoltatore di prima, che è quello della teoria del miliardino, cioè un miliardo di euro di risparmi che si ottengono facendo tante piccole cose. E forse una è anche questa: accorpare i piccoli comuni, saranno pure stipendi piccoli, però rimarranno stipendi piccoli, avranno un po' più di persone da amministrare. Può darsi che qualche servizio o logistica ne risenta, può darsi invece che ci si guadagni in termini di economie di scala, perché quando si accorpa anche di questo si tratta. Un'altra delle notizie che fanno riflettere è questa, arriva da Chiuduno in provincia di Bergamo. Pare, almeno è quello che denuncia l'opposizione, che la giunta PDL e Lega si sia varata un aumento di indennità ai tutti i consiglieri, ai membri della giunta, quindi non ai consiglieri ma ai membri della giunta, quindi il governo locale, da 25.000 a 77.000 euro. Chiuduno in provincia di Bergamo, anche qua. Chissà, magari ci arriva una smentita, questa che non è una bellissima notizia, perché saranno pure cifre piccole, però ripetiamo, da qualche parte bisogna arginarlo il fiume di perdite qua, no? Oppure andiamo avanti così. Dunque, ascoltatori, mi sono perso, no, non abbiamo il traffico, andiamo dritti fino alla pausa. E allora Giancarlo che chiama da Verona, buonasera. Giancarlo? Sì, buonasera. Prego. Ma guardi, io telefono in conseguenza anche di tutte le telefonate, di tutti i suggerimenti che ho sentito dare nel corso di questi giorni di preparazione della manovra finanziaria, eccetera. E le devo dire che io sono solidale col signore che è a Roma, non so come si chiama, che sta protestando davanti alla Camera dei Deputati. Gaetano Ferrieri, tra l'altro è iniziato il Consiglio dei Ministri poco fa. Questo lo diamo come notizia. Prego. Bene, ecco, io sono solidale con lui per quanto riguarda, diciamo, la figura. Certo è che però io non sono abituato a fare solamente critiche, ma anche a dare dei suggerimenti. Io in passato sono stato amministratore nel mio comune e ho sempre cercato di portare avanti una politica costruttiva. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco in particolare ad un aspetto che non ho visto prendere in considerazione da nessuno in questo periodo, e cioè la regolamentazione della prostituzione. Noi abbiamo in Italia un fenomeno che, se regolamentato, potrebbe produrre un reddito, una montagna di risorse per lo Stato, e nessuno la prende in considerazione. Io di questo mi sento indignato, e chiaramente la prossima volta non voterò centrodestra come ho votato finora, perché che non sia venuto a nessuno questa idea mi sembra molto strano. Detto questo, ci sono anche altre cosettine che potrebbero essere messe in campo. Ad esempio, se si desse la possibilità a chiunque di poter detrarre fiscalmente anche il caffè che si va a prendere al bar, che bisogno c'è di dire se per caso uno non emette lo scontrino fiscale ti faccio chiudere? Non è la paura della sanzione che fa, diciamo così, evitare al barista di emettere lo scontrino, bensì è la convenienza da parte di chi lo chiede. Se io vado dal dentista, per esempio, e non posso detrarre la spesa che il dentista mi fa fare, è del tutto evidente che cerco di risparmiare. Grazie Giancarlo. Anche questa è una di quelle cose che tornano ciclicamente, poi però non se ne occupa mai nessuno e non la fa mai nessuno. Le dedichiamo invece un passaggio dell'intervista che Gaetano Ferrieri, che lei citava, ha rilasciato proprio qua da noi. Lui dice: starò davanti a Montecitorio, credo che sia arrivato quasi al 70° giorno di sciopero della fame, finché non arriveranno milioni di persone qui con me. E io vado alla stanza, mio zio è tornato da Auschwitz dopo 2 anni, lei sa che Auschwitz non si mangiava e quindi pesava 36 kg, quindi presumo che io non muoio nell'arco, credendo in un ideale e credendo la ragione riesce a governare il corpo, io credo che possa andare a oltranza, non credo che i 70, 80, 90 giorni, 100 giorni possano far differenza, devono arrivare milioni di persone qui. E questa è la Gaetano Ferrieri. Andiamo a Tindaro, che ci chiama da Venezia, un nome curioso, buonasera. Buonasera a lei. Tindaro, prego. Voglio essere innanzitutto solidale con il signor Gaetano Ferrieri per quello che sta facendo. Il precedente ascoltatore mi ha preceduto, però sì, ci tenevo a dirlo. Niente, volevo, non lo so, creare una provocazione, o quantomeno ribadire alcuni punti. Il governo sta tagliando molto sugli enti locali, sia sulla precedente manovra che credo anche su questa, e più volte ha ribadito di essere legittimamente eletto dal popolo. Però gli enti locali, gli amministratori degli enti locali forse sono gli unici a essere direttamente, visto che esiste ancora il voto di preferenza, mentre per i deputati e i senatori un po' meno. Dunque, se bisognava iniziare a tagliare, io credo che bisognava, mi spiace dirlo, partire dalla testa, anche perché chi ha il contatto diretto con i cittadini ancora, io credo che siano solo questi amministratori, perché i nostri onorevoli, una parola un po' forte per loro, mi sembra che ultimamente lo siano un po' meno, e dunque dovevano fare, come si dice, mia culpa, quantomeno su questo, ma credo che pagheranno la prossima volta quando si voterà. Volevo dire, ribadire probabilmente molto a questo punto, io non credo che giuridicamente sia giusto e anche eticamente. E poi ultima cosa, voglio dire, io sono contro le province, le avrei abbattute subito, abbattendo le province, abbattendo metà dei parlamentari, io credo che il grosso della manovra sicuramente sarebbe già stato fatto, anziché andare a creare balzelli a destra e a manca, tutto qua. Perché grazie. Io non credo che sì, mettendo alcune tasse in più si risolve il problema, ma tagliare soprattutto quello che non serve. Grazie. Andiamo in provincia di Viterbo, da dove ci chiama Paolo. Buonasera. Buonasera a voi. Prego. Grazie. La mia, più che altro una prima domanda e un paio di considerazioni. La prima domanda è, veramente io non ho ancora capito a cosa ci serve stare in Europa. La cosa che vedo più evidente è che ci sta facendo da cane da guardia e costringe i nostri politici a prendere delle decisioni di risanamento che forse avrebbero dovuto fare anche senza l'Europa. L'unica cosa che sicuramente è successa è che ci ha impedito di gestire tutta la parte finanziaria nazionale in modo più indipendente e siamo costretti. Mi scusi Paolo, ma più indipendente di così, cioè l'Italia è indebitata fino al collo, abbiamo il terzo debito mondiale, i politici sono stati fin qua fin troppo indipendenti, mi pare, no? Bravo, adesso l'Europa ci chiede, ci chiede una cosa che avremmo dovuto fare da soli, non è l'Europa che ce lo dovevamo farlo noi. Sono d'accordo con lei. Il problema è che l'Europa a questo punto ci serve soltanto come cane da guardia. Non so se lei è d'accordo su questo. Meglio un cane da guardia che nulla, visto che qua, per restare alla metafora del cane da guardia, i ladri sono entrati, hanno portato via tutto e quindi adesso per salvare il salvabile almeno ci abbiamo un cane da guardia, se no... Sì, diciamo che con tutte le complicazioni che questo comporta. Sì. Vede, il problema è che salvare 60 anni di malcostume in 3, 4, 5, 10 anni è follia, lo stiamo vedendo, lo sta vedendo anche lei quello che sta succedendo in Italia. Siamo tutti alla canna del gas. Io sono un imprenditore da 40 anni e dico con molta franchezza, tutti gli abusi, tutto quello che è stato fatto all'imprenditoria è incredibile. Siamo diventati il tiro a segno nazionale. Vede, io sento adesso chiuderanno il bar che non fa lo scontrino. Lei non crede che quel tipo di evasione fiscale, che è importantissima, perché come giustamente diceva l'ascoltatore di prima o la persona che è intervenuta prima, a forza di quello del miliardino, la teoria del miliardino, sì, o i miliardi. Il problema è che dove veramente c'è una mega evasione fiscale, che è nella malavita, che è nella prostituzione, giustamente come diceva quel signore, quella lì stranamente non viene toccata, ma non viene toccata non dal centrodestra, non viene toccata dal centrosinistra, dal centrodestra, da chiunque vada su, quella è ignorata. È ignorata, Maroni adesso si ha fatto qualche cosa. Vabbè, ho capito, però è ovvio che si colpisce anche dove è più facile, sicuramente forse è più facile prendersela con lo scontrino del bar che non con la malavita, però mi scusi, questo non toglie che il mancato scontrino sia una forma di evasione piccola, ma che va tenuta sotto controllo. Non è che facendo i confronti tra chi è più grande e chi è più piccolo, il piccolo è esente da tenere comportamenti corretti dal punto di vista del fisco, perché se no, se andiamo di questo passo, si aspetta sempre che vengano colpiti gli altri. Può essere anche una legittima aspirazione, ma non è così che risolveremo questa situazione. Grazie. Comunque andiamo a Roberta, che ci chiama da Pordenone. Buonasera. Prego. Buonasera, io sono una dipendente pubblica e non mi vergogno di essere una dipendente pubblica, perché mai sembra che siamo ormai, come si dice, dove lanciano le freccette. Volevo fare soltanto un esempio. Ho sentito molti imprenditori e soprattutto uno ha detto: li mettiamo in cassa integrazione. Benissimo, io lavoro un po' nel settore e la cassa integrazione viene pagata dallo Stato, quindi la mobilità, gli ammortizzatori in deroga, cioè la gente si dimentica, anche gli imprenditori, che negli anni hanno approfittato in maniera spropositata di tutti questi ammortizzatori. Molti mettevano in mobilità per poi raggiungere la pensione, per 3 anni queste persone sono a carico dello Stato. E molti, ad esempio ingegneri, geometri, hanno vissuto sulle spalle dei comuni, delle province, ad esempio i revisori dei conti, sono dei commercialisti, dove lavorano? Nei comuni. Se qualcuno va a vedere quanti soldi prendono, e sono dei privati. Hanno fatto l'esempio delle poste, sono privatizzate, Equitalia... Roberta, la musichetta vuol dire che siamo alla pausa, resti con noi, proviamo a capirci qualcosa del suo intervento tra un attimo, pausa. Pochi secondi alle 20, sentiamo i titoli del TG1. Iniziato il Consiglio dei Ministri che varerà le misure anticrisi. Napolitano, anche dopo riunione di governo, confronto su proposte di tutti. Manovra le misure, taglia costi della politica, federalismo fiscale anticipato, licenziamenti più facili, tassa di solidarietà per i redditi elevati. Critici regioni ed enti locali, il PD pronta a contromanovra, la maggioranza, decreto risponde a richieste europee e difende paese da speculazione. Secondo giorno di forti rialzi per le borse europee, più 4% piazza affari, stop di 15 giorni, vendite allo scoperto. Polemiche in Gran Bretagna tra Cameron e polizia, proseguono le indagini, 1900 arresti, morto un anziano aggredito negli scontri. Ultime partenze per Ferragosto, 36 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni, ci sarà sole su quasi tutta la penisola. La Germania ricorda i 50 anni del muro di Berlino. Lo fece costruire la notte tra il 12 e il 13 agosto del 61 il governo comunista della DDR per bloccare il passaggio verso la libertà. Divenne un simbolo di oppressione. Intanto ci sono nuovi particolari sulla bozza di sulle varie bozze di riforme che sono entrate in Consiglio dei Ministri. A proposito degli enti locali, saranno accorpati i comuni con meno di 1000 abitanti. Questa è una delle previsioni. Poi c'è una dichiarazione del sindaco di Padova che dice Flavio Zanonato del PD, però solitamente non sempre allineato con le dichiarazioni del centrosinistra, dice siamo alla distruzione dei bilanci comunali ed è la morte della presa in giro del federalismo fiscale. Anche Roberto Formigoni, governatore della Lombardia PDL, oggi ha detto che insomma questa è una botta per il federalismo fiscale. Avevamo in linea Roberta da Pordenone. In un minuto, qual è il senso del suo intervento? Perché fino ad allora ci eravamo un po' persi, Roberta. No, praticamente sì. Volevo dire che non è, il debito pubblico non è colpa soltanto dei dipendenti pubblici, in quanto molti imprenditori hanno un po' in questi anni hanno approfittato dello Stato. Cioè, quindi, con gli appalti pubblici, i lavori pubblici. Gli appalti, provi a pensare appunto alle mobilità, tutti gli ammortizzatori in deroga, qualsiasi scusante è buona per mettere in mobilità tot persone, per metterle in cassa integrazione, per approfittare, o se no appalti pubblici, consulenze, un'infinità di consulenze, ci sono delle professionalità. Un mare di consulenze, sempre troppe consulenze. Grazie Roberta, grazie, buona serata. Paolo da Carrara, da Ferrara, buonasera. Paolo? Buonasera. Sì, prego. Io volevo fare un piccolissimo intervento e vista la situazione come sta diventando, faccio anche una valutazione vista come mi sto comportando io in famiglia. Ho iniziato a vendere dei pezzi che non utilizzo più, ho venduto una bicicletta, ho venduto la canoa, in vacanza invece di andarci in Francia ci va uno solo, cioè mia figlia, e quindi stiamo facendo anche noi i nostri sacrifici. Chiedevo, visto che siamo il paese con il patrimonio artistico più elevato al mondo, abbiamo il 50% delle opere d'arte, la maggioranza sono negli scantinati di sottoscala, se era possibile valutare una vendita di una parte del patrimonio artistico. Adesso io potrei fare una provocazione dicendo vendiamo Pompei agli australiani o ai cinesi, sicuramente ne ricaviamo un'utile. Ma mi scusi Paolo, ma come si fa a vendere Pompei? Cioè o si dà a un privato la gestione del bene artistico, e in alcuni casi è stato fatto, però se produce utile allora sarebbe bene tenerselo per sé, no, da parte dello Stato. Pure non è che si può vendere il Colosseo, cioè, non può diventare proprietà privata. Però quando una famiglia è in crisi inizia a vendere i quadri, i pezzi che non utilizza, ho paura ci toccherà fare così. Vabbè, insomma, diciamo che la sua proposta, ora magari applicata a Pompei, è un po' complicata, però per esempio ricordo quando l'Alitalia ha fatto la liquidazione della Bad Company, una delle cose, anche lì si rimane a bocca aperta perché c'erano quadri che abbellivano gli uffici dei dirigenti, quadri anche di autori importanti che vennero venduti in quella liquidazione, giustamente, se ne ricavarono anche un po' di bei soldini, insomma. E quindi anche questa è una proposta. Titoli della 7. Il giorno della verità, il governo riunito dalle 19.35 a Palazzo Chigi per varare la manovra più difficile sofferta, fino all'ultimo tensioni, contrasti nella maggioranza, al centro la battaglia sulle pensioni. Le prime misure che si conoscono alla ricerca di altri 45 miliardi di euro, tassa di solidarietà al 5% sopra i 90 mila euro, addizionale IRPEF per gli autonomi sopra i 55 mila euro e poi tassa del 20% sulle rendite finanziarie, esclusi BOT e CCT, nessun aumento dell'IVA, nessuna tassa su case o patrimoni. Saranno accorpati i comuni sotto i 1000 abitanti, 1500 circa, addio alle province sotto i 300.000, 34 in totale, confermato il taglio delle festività che saranno spostate a lunedì, quelle laiche, mano pesante contro chi non emette fatture o scontrino fiscale, c'è il rischio immediato di chiusura. sulla parte della manovra che è stata loro presentata, l'ira degli enti locali che bocciano i provvedimenti e dicono: così possiamo dire addio al federalismo fiscale. Cautela da parte delle parti sociali e delle opposizioni che attendono di valutare attentamente le misure anticrisi. Ma nel pieno della bufera politica i mercati si godono un'altra giornata in rosa, con le borse europee e soprattutto Piazza Affari che chiudono in positivo. Motivo la riscossa europea contro la speculazione, lo stop per le cosiddette vendite allo scoperto. Danni collaterali, possiamo dire, cassette di sicurezza che vanno via come il pane a Chiasso e Lugano, un vero e proprio boom con i nostri connazionali che corrono a affittarle, imprenditori, professionisti, un via vai nella vicina Svizzera per sfuggire alle misure del governo, e così vanno via soldi anche sottratti al nostro fisco. Dalla Siria le immagini della nuova ribellione, stavolta arrivano dalla capitale, Damasco, dove il regime ha usato ancora il pugno di ferro, almeno 2 le vittime, ma si parla di 15. Obama parla col premier turco Erdogan e dice: le richieste di democrazia del popolo devono essere accolte. 28 minuti, qualcuno comincia a fare i conti di quante sono le province sotto i 300.000 abitanti che potrebbero essere tagliate, sarebbero 34, queste erano anche le cifre che c'erano già oggi sui giornali, se il parametro diciamo dei 300.000 abitanti è rimasto lo stesso, e non sono poche. Attenzione però, perché da quel che abbiamo capito si parla di un'operazione che scatterà con le prossime elezioni. È chiaro che non si può smontare una istituzione, insomma un ente locale così da zero. Speriamo però che non si tratti della solita previsione che è stata fatta più volte, che poi al momento opportuno, chissà perché, magari in un momento di minor crisi, tra un anno o due salta e invece le province non vengono abolite. Non perché ce l'abbiamo particolarmente con le province, perché hanno capito tutti ormai che lo Stato italiano deve assolutamente dimagrire, e non volendo tagliare i servizi essenziali bisogna dimagrire da altre parti. Questo è un concetto chiarissimo e ineludibile, che ne dica per esempio Francesco Speroni, che dai nostri microfoni qualche giorno fa ha detto: ma che province, aboliamo le questure? E io dico: aboliamo anche le questure, allora aboliamo tutto se ce lo possiamo permettere, ricordando però che le questure hanno un ruolo sulla sicurezza, che se aboliamo quelle non ce l'ha nessun altro. Invece le province, se aboliamo quelle, ci sono i comuni e ci sono le regioni, caro Speroni. E credo che anche a Speroni abbiano risposto tutti i dirigenti delle questure infuriati per la sua proposta, per la verità un po' bizzarra. Ascoltatori, Augusta da Brescia, buonasera. Buonasera, sono un po' emozionata. Io una soluzione ce l'avrei, sono ancora più drastica. Abolire le province, abolirei i politici. Perché a questo punto... Beh, Augusta, però abolire i politici... Guardi, la mia sarebbe troppo facile, sarebbe come tac, in un colpo, abolito i politici. No, però poi è un i problemi restano, sì. Però io direi, tu politico, ti candidi, se sei eletto... devi fare questo per volontariato. Anzi, siccome sono un gran furbi, io abolirei anche i rimborsi spese per evitare una voce di bilancio, perché loro tutte le voci di bilancio le gonfiano, per evitare che le gonfino. Se uno vuole e le va bene e le fa e sta a cuore la nostra cara Italia, lo deve fare come volontariato. Oppure sta alla sua casa, perché nessuno le ha chiesto di andare. Di solito vanno, questo è un luogo comune, vanno e si arricchiscono tutti. È possibile che tutti i politici che vanno in politica si arricchiscano? Augusta, grazie. Io personalmente non sono d'accordo con lei, perché penso che invece uno stipendio sia dovuto, ma guardi, sia necessario. Che io sono arrivata che a mali estremi, lo capisco anch'io, sì, che uno stipendio ci vuole, però io sono arrivata, se non altro, al sa paradosso. Perché se non altro, perché se no poi a fare politica ci andrebbero solo quelli che di un certo ceto sociale, cioè quello più elevato, che potrebbero farlo anche per volontariato, come dice lei. Ricordiamoci sempre di tutto quando si fanno queste proposte, perché se no davvero si scivola. Così, insomma, vabbè, ma è tutto ammesso, Augusta, scherziamoci anche su, aboliamo i politici, va bene, però è una roba decisamente impraticabile e anche un po' così, insomma, qualunquistella. Camilla da Treviso, buonasera. Buonasera. Prego. Visto cercando di racimolare soldi un po' di qua, un po' di là, visto che tutti siamo chiamati a fare dei sacrifici, perché nessuno, né dalla maggioranza, né dall'opposizione, né altri, fanno la proposta di far pagare l'ICI alla Chiesa? Questo è anche vero. Qualcuno la proposta l'ha fatta, il problema poi è il problema, insomma, il risultato non c'è stato per ora. Qualcuno la proposta l'ha fatta. Grazie. Grazie Camilla. Cioè, siamo in grado di dare una prima elenco di province che verrebbero abolite, o poi vedremo quali saranno i meccanismi, cancellate da questa riforma, a partire dalle prossime elezioni. Però ricordiamoci, sotto i 300.000 abitanti ci sono Aosta, per esempio, ci sono Ascoli Piceno, ci sono Asti, Belluno, ci sono Benevento, ci sono Biella, stiamo andando in ordine rigorosamente alfabetico, Caltanissetta, Campobasso, Carbonia Iglesias, Crotone, Enna, Fermo. Sono sotto 300.000 abitanti anche Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, insomma non sono poche: Lodi, Massa Carrara, alcune anche storiche, Matera, Medio Campidano, questa non è storica, Nuoro, Ogliastra, Olbia Tempio, Oristano, Piacenza, Pistoia, Prato, non so se le abbiamo prese tutte, Rieti, Rovigo, Savona, Siena, Sondrio, Terni, Verbano, Cusia, Ossola, Vercelli e Vibo Valentia. E queste sono le 34 province a rischio. 20:13, chi sentiamo? Claudio che ci chiama da Bergamo, buonasera. Claudio? Sì, la sentiamo benissimo. Claudio, ecco, buonasera, prego. Ho l'auricolare, ma andate a vederlo ben attaccato. Ascolti, io dicevo prima alla sua collega, io seguo da anni la ristorazione ed è veramente una cosa scandalosa. Io devo fare buon viso a cattivo gioco per motivi di lavoro, ovviamente. Non cos'è scandaloso? Posso. Cos'è che è scandaloso? Scandaloso le richieste delle forniture che dobbiamo portare, che tutti chiedono quasi tutto in nero. Noi, facendo parte di una multinazionale, non possiamo fare questo. Mi trovo tante volte a perdere gli ordini, e perché sia dal piccolo bar alla grande ristorazione, all'hotel a 5 stelle, qualsiasi settore, tantissima delle forniture, sia mangiare, bere, e anche forniture, attrezzature, diciamo, importanti, che vanno, vogliono tutto in nero. Cioè, se la Guardia di Finanza dovesse fare un giro nei scantinati e fare un inventario della roba che hanno giù, veramente troverebbero di tutto. Ma questo qua però è dovuto anche al la legge che ha fatto il governo Prodi, gli studi di settore, che hanno portato a questo, ed è stato veramente una roba impressionante quello che fanno di nero. E io le posso portare la mia testimonianza, che essendo anni che seguo il settore, ma poi la roba ridicola, anche il barettino che apre, che non ha, che ha un tetto comunque il primo anno assolutamente irrisorio di spese, e vogliono anche loro tutta roba in nero, tutte forniture in nero, e trovano aziende che gliele fanno, e da parte mia è veramente anche impossibile denunciare la questione, perché capisce, cioè il motivo, il discorso. Cioè, lei di pensa lavoro, che il problema siano gli studi di settore? Cioè, senza studi di settore questi non farebbero il nero? Sì, perché la cosa è c'è stato un incremento negli ultimi 3-4 anni, ma non dico per parlare, perché io veramente sono favorevole a Prodi, però lo studio di settore. No, ma non è questione di essere favorevole al Prodi. No, per dire, è questione che ogni volta che politica, no, ecco. La questione degli studi di settore è molto complessa e io non mi addentro, però ogni volta che si mettono in piedi degli strumenti di lotta all'evasione, poi è chiaro che in questo caso lei suggerisce che ci possa essere un controeffetto negativo addirittura, però è vero anche che poi la reazione è negativa, perché comunque si va a colpire qualcosa, e questo fa sempre solleva sempre, insomma, delle ritrosie, è chiaro, no? Però torniamo al punto di partenza: se non si fa nulla non si ottiene assolutamente nulla, e quindi anche gli studi di settore saranno stati fatti male o sbagliati, però bisogna accettare gli strumenti di lotta all'elusione fiscale. Se poi sono sbagliati, questo è un altro conto, però a volte il sospetto è che il problema sia un altro, non che siano sbagliati, ma che non si vogliono pagare le tasse. 20:16, traffico, e poi ancora uno spicchio di trasmissione, di programma, con i vostri interventi al numero verde 824 0024. E allora, ancora con i vostri interventi, cari ascoltatori, riprendiamo da Carlo che ci chiama da Roma. Buonasera. Buonasera a voi, ho iniziato la trasmissione da Civitavecchia e come Italia che lavora adesso sono già a Roma, ma non volevo dire solamente questo. Sento parlare di tagli lineari un'altra volta con l'abolizione delle province, sento proposte di aria fritta. Perché tagli lineari e l'abolizione delle province? Prendiamo quelle con meno abitanti e le sforbiciamo, non è che prendiamo quelle che spendono di più o sprecano di più. Lo so, però mi scusi Carlo, però è un po' difficile perché il criterio dello spreco è un po' complicato, poi una provincia può avere sprecato in una legislatura, non nell'altra, certo. E quindi come si fa? Il criterio dei numeri, sì, è un taglio lineare, però in questo caso è anche razionale. Sì, vabbè. Assolutamente, ma io non volevo parlare di questo. E allora perché volevo l'ha detto lei? Perché nel frattempo è entrata questa nuovo argomento. Volevo intervenire sull'assenza di alcune parole chiave negli ultimi discorsi, nelle ultime manovre, perché qua si parla di una manovra al mese, e levando sangue a un organismo, l'organismo dopo un po' muore. Qua non si parla di innovazione, non si parla di sviluppo, non si parla di crescita, non si parla di infrastrutture, non si parla di internet e non si parla di giovani. Questi vecchi continuano a mantenere le loro garanzie enormi, i loro privilegi enormi. Io sono vecchio, 55 anni, non posso pensare di entrare nel mondo dei giovani, ma lo sto vedendo dall'alto. Sto seguendo una manifestazione a Torino, Working Capital, per i 150 anni, dove i migliori progetti di giovani italiani sono portati all'evidenza. Non sento parlare di questa manifestazione in nessun contesto nazionale. Il futuro dell'Italia, il futuro dei giovani è in mano a gente, scusate l'espressione, rincoglionita. Grazie. Grazie Carlo, grazie. Sì, è un peccato che a volte si discuta più di polemiche inutili e non si dia pubblicità alle iniziative che riguardano i giovani. Questo è vero. Certo, questo programma non è forse il più adatto per questo tipo di interventi, ma insomma ce ne sono altri. Mauro da Mantova, buonasera. Buonasera. Prego. Guardi. Lei ride già ancora prima di parlare. Guardi, sentire la manovra, come la stanno facendo. Mi metto a ridere perché sarebbe da prendere un fucile e andare a sparare a chi la buttasse giù. Allora, io mi domando, ma per quale motivo si deve andare a colpire le piccole e medie imprese, gli artigiani, se non le metto una fattura? Ma in Italia col sistema fiscale che c'è, evadere è un dovere morale. Ma perché uno deve pagare il 47% quando ci sono le coop che pagano il 7% e i soldi che prendono se li portano in Svizzera, perché io lo so che sono in Svizzera, perché ci sono e stato. Quelli che invece le pagano tutte le tasse cosa sono, scemi? No, sono immorali? Sono generosi, perché ascolti, ma se i primi evasori sono quelli che hanno il portaborse che li pagano in nero, ma le coop che pagano il 7, ma stiamo scherzando? E quindi lei che fa? Non paga le tasse perché a Roma non pagano il portaborse? È un portaborse. Dovere non pagare le tasse con un sistema fiscale che c'è in Italia, è un dovere. In Svizzera si paga il 18 o il 20, perché io qui devo pagare il 45 e se supero l'aliquota il 67? Ma stiamo scherzando? Io vado a lavorare per mantenere un napoletano da 26.500 euro al mese o un senatore da 18-23.000 euro al mese o un deputato da 12.500 euro al mese, quando invece ci sono quelli del Lussemburgo, dell'Austria o della Germania o della Francia che prendono 3.500-4.000? Ma stiamo scherzando? No, ma cosa aspettano a rendere pari i loro stipendi con quelli degli altri deputati e senatori? Cosa aspettiamo? Che la gente si ribelli e vada là con i fucili? A Roma no, aspettano questo? Perché presto succederà questo, eh? Ma ci siamo o facciamo finta di non sapere le cose? Le cose sono queste, eh? Guardi, io per esempio sono un dipendente, quindi non ho questo privilegio di poter moralmente evadere le tasse. Le pago alla fonte e mi lamento anch'io degli sprechi, e questa è la differenza tra me e lei. Grazie Mauro, buona serata. Fulvio da Trieste, prego, buonasera. Buonasera, io volevo riprendere un argomento che è stato toccato da un'ascoltatrice. Mi sembra che siano tutti toccabili in questo momento, pensionati, aziende, ricchi, poveri. L'unica intoccabile è la Chiesa. Oggi girava un calcolo su Facebook e via internet di un radicale, mi pare Staderini, che diceva che sono 4 miliardi all'anno. c'è l'otto per mille, ci sono gli sgravi fiscali per gli enti ecclesiastici, ci sono tutta una serie anche di privilegi, ci sono gli insegnanti di religione che sono inamovibili, anzi sono movibili nel senso che si muovono verso posizioni di ruolo per essere sostituiti da altri sì. Insegnanti di religione. Per cui sì. Penso bisognerebbe cominciare a toccare anche questo. Cioè io penso che questa crisi possa essere anche un'occasione positiva appunto per fare un po' di pulizia, per togliere ma tutti i privilegi di chiunque siano. Ecco. Grazie. Credo che anche la questione dei contributi in varie direzioni che fin qua lo Stato è stato in grado di garantire, per esempio anche alla Chiesa, e prima o poi andrà messa sul tappeto. Mi scuseranno tutti quelli che invece non la pensano così, però anche questo è vero, di calcoli ne sono stati fatti parecchi, i trasferimenti sotto varie forme, lei l'elenco l'ha fatto, dall'ICI alla Chiesa che non paga sui immobili che hanno un uso legato al culto eccetera eccetera, però forse anche questo potrebbe essere un tema da mettere sul tappeto, perché no. Dove andiamo? Andiamo ad Alessandria. Antonello, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Dunque, io ho partecipato alla mia prima campagna elettorale nel lontano 1976 o 77, insomma, ora ho 53 anni. No? E francamente la classe politica di oggi ci fa rimpiangere quelli che all'epoca uscivano con i manifesti se il 20 dormi 21 russi. Antonello, un attimo che la interrompo, sì. La faccio proseguire, perché abbiamo uno dei primi commenti, credo, a caldo di quello che si sa della manovra in Consiglio dei Ministri. Questo è il ministro Galan che mi sembra un po' scettico. Sentiamo. Dico che se contiene solo sacrifici per i cittadini, tipo patrimoniale o tagli sulle pensioni, e nessun investimento sul futuro dell'Italia, cioè per lo sviluppo, io non la voto. Okay. Le patrimoniali, uno Stato serio, le mette su se stesso in questi momenti, non sui cittadini. Una manovra depressiva, l'hanno detto in molti, non dimentichiamo che sono state coinvolte le parti sociali, la CGIL dice che se andiamo di questo passo si appresta a fare lo sciopero generale. Le sembra opportuno comunque in questo momento uno sciopero generale? Ma guardi, a noi sembrerebbe opportuno che la manovra non faccia di nuovo un grande attacco alla condizione dei lavoratori e dei pensionati. Se lo farà, lo domando anche a CISL e UIL, che cosa può fare il sindacato per difendere i lavoratori e i pensionati se non mobilitarsi anche con lo sciopero per cambiare questa manovra? Ovviamente il senso della cosa di ieri, il lavoro che stiamo facendo è perché la manovra sia equa e non ingiusta, ma se fosse ingiusta non si potrà non reagire. E allora avevamo Antonello da Alessandria, sì. L'avevamo interrotta, prego. No, dicevo, la mia prima campagna elettorale negli anni 70 c'era un manifesto elettorale che diceva se il 20 dormi il 21 russi, ed erano quei manifesti elettorali fra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, insomma, per intenderci. Oggi rimpiangiamo veramente quella classe politica. Gli Io non ho capito nulla di questa cosa del dormi in russa. No, cioè, spieghi meglio. Dicevo questo per sì. Arrivare a dire che all'epoca comunque, quando la politica era ancora un qualcosa di nobile, oggi ci fanno rimpiangere perché i vari onorevoli politici che vengono anche ospiti alla sua trasmissione più delle volte dimostrano di essere delle persone incompetenti, incapaci, e purtroppo sono lì a rappresentarci e non rappresentano, purtroppo non sono in grado di dare delle risposte alle esigenze dei cittadini. Va bene, grazie cittadini. Antonello, andiamo a Fabio che ci chiama dalla provincia di Lecco, prego. Salve, buonasera. No, soltanto una breve annotazione rispetto sì. A chi sta facendo e dovrà fare ulteriori sacrifici. Come dipendente pubblico il mio stipendio rimane fermo dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2013. Io ho fatto due conti, io sono insegnante e mia moglie pure, alla fine di questi 4 anni, mancati adeguamenti semplicemente all'inflazione, non è un aumento, semplicemente avendo uno stipendio bloccato con i prezzi che salgono, ci costeranno come famiglia dai 4 ai 5 mila euro. Che è molto di più del contributo di solidarietà che si chiede adesso a chi ha redditi superiori ai 90 o ai 120 mila euro. non mi pare che se ne parli. Tra l'altro sono milioni di dipendenti pubblici che guadagnando di meno spenderanno di meno. Io quest'anno non faccio ferie per la prima volta da quando lavoro e sono 20 anni. Ecco, io credo che quando si parla di manovra depressiva si debba pensare anche a questo. Grazie Fabio, ci dobbiamo fermare qua perché siamo giunti anche alla fine di questa puntata. Io ringrazio per tutta la settimana Laura Marchesi e Marco Lombardo in redazione, Valeria Bernardi in regia. Con la Zanzara ci ritroviamo lunedì prossimo. Abbiamo trascurato Facebook, ma restate attaccati perché andremo a vedere i vostri commenti. Buon weekend. Radio 24. La passione si sente.